Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buongiorno. Ma buongiorno. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Amore, questa mattina c'è un articolo fantastico che ho preso da Green Style che vorrei come si dice, Sviscerare. Animali bugiardi. Commentare. Animali bugiardi. Ecco i più curiosi e astuti. Però io sono stata molto colpita dalla passera scopaiola. Cioè? Allora, aspetta, facciamo un passo indietro, perché sennò qua già si sprecano le battute. No, perché si parla della passera scopaiola o del passero domestico. Tu ovviamente sei il passero domestico. Passera scopaiola non è perché è così, perché è di facili costumi, però. Anche. No. Sì. No, si chiama così perché spazza il terreno con mentre... la coda. Però un'altra coda. Curiosità della passera scopaiola, la femmina si accoppia con più maschi, capisci? Almeno nell'unica nel regno animale, voglio dirti, anche i mammiferi lo fanno. Tu figurati che anche gli esseri umani, tu pensa a questa cosa qua, anche gli esseri umani, no? Allora, si è studiato praticamente che lo sperma dell'essere umano, dell'uomo, l'uomo maschio, forma delle barriere una volta che il maschio è eiaculato nella vagina della donna. Questo perché? Perché la donna normalmente si accoppierebbe con più... più esemplari, giustamente. E quindi lo sperma deve creare delle barriere per non far fecondare da altri. Vedi, che si sa, ecco, come siamo messi già noi esseri umani. Invece la passera scopaiola, dopo che si riproduce con il primo passero, questo eiacola il suo spermatozoo all'interno dell'apertura genitale femminile, ne arriva un secondo che picchietta col becco sulla cloaca femminile, inducendo la femmina a rilasciare il precedente eiaculato. Così facendo, il secondo partner sessuale si assicura l'accoppiamento. Non abbiamo capito un cacchio, dovremmo imparare dalla passera scopaiola. Ah, dici? No? Non così lo so. Picchiettate apriamo una allora, cosa ne pensate? Radioascoltatori, perché normalmente uno dice no, perché gli animali sono fedeli, la fedeltà nel mondo animale, eccetera. Scriveteci a chiedimi se sono felice, @radio24.it. Ma come dicono molti scienziati, l'essere umano è biologicamente traditore, culturalmente fedele. Sarà Oddio, vero? Culturalmente parliamone. Sì, beh, insomma, veniamo fuori da una cultura che è quella della... Amore, ma tu ti senti un po' passero domestico? Un po' passero domestico? Dipende da quello che fa il passero domestico, insomma. No, non sei per un tubo un passero domestico. Ah, non lo sono. Tu. No. Perché cosa fa il passero domestico, scusa? Fa le pulizie di casa. È per questo che si chiama domestico. No, si chiama passero domestico perché fa un sacco di nidi. Così dice, in qualcuno di questi nidi qualche passera scopaiola arriverà. Ma non smettila, che dai informazioni sbagliate. Ma non è completamente sbagliata questa. Fa un po' di nidi. È vero, adesso non è. Adesso me la dovrei andare a rileggere, non me la ricordo bene. Però fa un sacco di roba i nidi, quindi domestico. Domestico per quello. Domestico per quello. Secondo poi me non, ci non lascia... è per quello che si chiama domestico. Guarda, adesso vado a lascerò cercare. Che adesso tu vada a cercare il motivo per cui si chiama domestico. Che non è che fa i nidi. Comunque, questi passeri, fa le pulizie di casa, questi passeri domestico. A me divertono parecchio, mi hanno divertito tantissimo. Passeri e passere, tra l'altro. Passeri e per quello forse la chiamano passera? Ma dai! O passerà, nel senso che viene presa, poi passa. Fuori uno, altro giro, capite, altra corsa. Capite la Celentano? Qui c'è un ornitologo, capito? Questa ha studiato biologia ad Harvard. Se ad Harvard c'è l'insegnamento di etologia. Senti, però invece parliamo di una cosa seria di cui raramente ho sentito parlare, praticamente mai, a dire la verità. Sì, però di animali bugiardi non abbiamo parlato. Ah, scusami, già, parla di animali bugiardi. Perché il fulcro di quella cosa lì... parlamene tu, che tu hai letto l'articolo. Quanto allora, l'inganno... No! Ma se l'hai appena sottolineato tu? Vabbè, allora sì, però... volevo... No, ci sono... Vai, vada. No, allora, l'inganno è una strategia comune a molti animali che fingono di fare qualcosa, che sia su qualcosa, in realtà ce n'è un'altra. Tu dopo la passera scopaiola. Recitano e mentono questi animali. Allora, recitano? No, cosa ho detto? Recitano? Recitano mentono. Beh, per esempio c'è la ghiandaia azzurra che simula il verso di alcuni falchi, per esempio, così che tutti gli altri dicono no, ci sono dei predatori in giro, se ne vanno e lei ha il cibo tutto quanto per sé. Capisci che sono furbi. Oppure c'è la passera scopaiola. E cosa fa la passera? Come fa a mentire la passera scopaiola? Sentiamo. Perché dedita a una vita monogama con qualche scappatella extra per assicurarsi i benefici genetici per la prole. Beh, dov'è l'inganno, scusa? Questo, che fa finta di essere una santa e invece la dà via come il pane. Hai capito? È tempo che ho tradotto, no? Non so se siamo in fascia protetta oppure no, però oggi abbiamo iniziato così. I maschi solitamente e brutalmente bacchettano l'apertura di produzione. L'abbiamo detto prima. Che cavolo. E vedi che io avevo già parlato di animali. Quindi insomma l'insegnamento essenziale è che l'inganno non è qualcosa che appartiene soltanto agli esseri umani. Sì, c'è anche lo biologicamente, insomma, c'è anche lo scoiattolo grigio nordamericano che è bravissimo a depistare la concorrenza. È solito conservare in bocca una noce che cerca di seppellire, ma la scelta del luogo confonde gli avversari che alla fine non riescono a individuare la giusta collocazione. Sei un po' tipo carta sì, carta no. No, perché sì, di solito lo scoiattolo fa questo, no? Ci sono gli scoiattoli che sono sugli alberi, guardano cosa fanno quelli giù, no? Allora, normalmente che cosa fa lo scoiattolo? Nasconde quello che ha preso, le noci, non so, quello che deve mangiare, lo nasconde per terra. L'altro che sta su scende, va a scavare proprio in quel punto e si ruba la noce, no? Però quello che succede a volte è che lo scoiattolo finge di lasciare lì la noce, in realtà fa tutta questa cosa qua per depistare, va via, l'altro va lì per scavare e recuperare la noce, ma non trova nulla. Lui e se nel invece frattempo trova la noce vince anche 50 euro. Vabbè, ma allora dicevamo che c'è un altro argomento importante per i nostri amici animali. Adesso in estate. State molto, molto, molto attenti, perché voi non ve ne accorgete, ma l'asfalto è bollente, i vostri cani ne possono risentire. Esatto. Guardateli bene, a volte i cani danno anche un segno, cioè vogliono cercano la superficie dove c'è ombra, lasciano le zampe, le alternano, oppure si mettono a mugolare. Attenzione, osservateli per bene, perché quando fanno questo già stanno già soffrendo parecchio, insomma. Sì, perché a volte io vedo le signore che con i cani al guinzaglio si fermano a parlare sui marciapiedi, loro magari insomma hanno la testa all'ombra, però i cani poverini hanno il guinzaglio lungo e stanno con le zampine sull'asfalto. È molto molto caldo. Il cane caldo. Tante volte si arrampica un po', dà dei segni, chiama eccetera, solo che la signora gli dice stai buono, perché in quel momento dice chissà cosa gli è preso stamattina, non è che l'asfalto è bollente, state molto molto attenti. Benissimo, allora adesso facciamo un attimo un break e subito dopo, perché ci abbiamo un sacco di argomenti interessantissimi. Un break, con noi. Un attimo, un break. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Senti, adesso come si fa? Perché sai che nelle trasmissioni, qualunque cosa, anche in un libro, si parte in un modo e poi deve essere in un film, ci deve essere un crescendo, poi si arriva alla fine, bam, c'è il botto. Dopo la passera scopaiola, il passero domestico, quale non sei tu? Ok, ma ancora sto passero domestico, allora basta. Allora, la nostra trasmissione si chiama Chiedimi se sono felice. Ma va? Recentemente abbiamo conosciuto una persona che si occupa di felicità, in particolar modo di crescita spirituale e personale. Ho fortemente voluto conoscere io. Hai perché fortemente mi è voluto conoscere. Molto già per quel quindi poco che ringraziamo, vedevo. Ringraziamo così tutti tanto. Tutti con una ola, un applauso. Rosita grazie. Celentano, che ha permesso questo contatto così importante. Abbiamo con noi Cecilia Sardeo, che è presidente CEO del Mind Valley Italia. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao Cecilia. Ciao. Allora Cecilia, tu pensavi di essere in una radio dove si seria, dove si parla di cose scientifiche? Normale. Esatto. Ecco, invece sei qua tra i pazzi. Allora, è importante questa cosa qua. Allora Cecilia, ragazza giovanissima, si occupa di tanti progetti sul web, insegna grazie alle sue piattaforme, una di queste si chiama Omnama, oppure recentemente ha un nuovo progetto che si chiama La Svolta School, via dicendo, insegna alle persone a o meglio insegna, permette loro, crea le condizioni perché loro possano evolvere dal punto di vista personale e spirituale. Ho detto bene, Cecilia, vuoi spiegarlo magari meglio tu? Sì, magari, ecco, quello che voglio sottolineare è che non sono io a insegnare, mi piacerebbe essere già a un livello tale per cui posso insegnare come evolvere spiritualmente, però quello che ho deciso di fare dopo essere stata esposta, no, alla crescita personale in maniera poi del tutto casuale, aver visto cosa faceva nella mia vita, è stato quello di trovare appunto delle figure che hanno deciso di dedicare la propria vita, no? Allo studio di che cosa significa essere felici, essere se stessi, recuperare un po' la relazione che abbiamo perso, no? con i nostri valori più importanti e mettere insieme queste persone in una piattaforma dove in qualche modo possano essere trovati degli spunti poi per cominciare una crescita. Poi è chiaro che la crescita deve essere fatta da parte di ciascuno di noi individualmente. Certo, poi tra l'altro lei adesso umilmente dice io non posso ancora insegnare eccetera, però lei ha lei sta disegnando il suo stile di vita attorno ai propri valori e principi. Per esempio adesso ti trovi a Barcellona, mi sembra. Sì, poi sì. Sei stata in Italia, poi prima ancora alle Canarie, poi sei vissuta a Bali. Quindi lei gira il mondo gestendo questa piattaforma in linea con i suoi valori, capisci? Quindi è una persona che fa quello che dice e dice quello che fa. Devo iniziare anch'io allora? Sì, sarebbe anche... ma allora domani mi faccio il primo biglietto aereo. Ma basta, sì, infatti, subito. Viaggiamo subito. Hawaii. Hawaii, a dove vai? No, vado, Hawaii. Vado, senti, va. Cecilia, ma c'è stato qualche, che ne so, un personaggio in particolare che secondo te, tra quelli che tu hai intervistato, che hai permesso di intervenire sulle tue piattaforme, ti ha particolarmente colpito? Oppure degli insegnamenti che ti sono rimasti particolarmente impressi sulla felicità? Sì, miei, l'ho colpita particolarmente io. I miei insegnamenti sono stati... quelli sulla modestia. Sono stati soprattutto. Quelli... da lì hai imparato la modestia, da Rosetta. Ecco, quindi... Non so, Cecilia, se c'è qualcosa che ti ha particolarmente rimasto a cuore, che ti ha permesso di crescere. Che... Guarda, ce ne sono tantissimi. Uno in particolare, non, cioè, se ne nominassi solo uno non renderei giustizia agli altri. Uh-huh. Però posso, più che un insegnamento specifico, poi il bello di trarre molti spunti da figure diverse è anche quello poi di creare dei collegamenti che poi trasformi in concetti tuoi propri, cioè fai tuoi. Alcuni sono stati sicuramente il passaggio, che poi sembra una cavolata, no? Però, mm-hmm. però fa tutta la differenza, dal pensare, ad esempio, sono fatto così, amen, è morta lì, al cominciare a pensare che invece mi sono abituata ad essere in un certo modo, no? E come sì. ogni abitudine, come l'abitudine di mangiare troppo poco o di fare una cosa piuttosto che un'altra, posso anche abituarmi a mettere un po' in discussione come... Certo. Come ho sempre pensato di essere. Ho sentito anche un certo in sottofondo, detto da una cristiana. Che perché? Io perché mi Rosita, metto in discussione ogni giorno. Ma certo, però sai qual è la sua frase preferita? Dice, oh, ma io sono fatta così. No, non è vero. Sono fatta così, però posso pure cambiare. Il problema sai qual è, Cecilia? Però il problema sai qual è? È che essendo già... sfiorando la perfezione, avendo quei pochi difetti che ti fanno perfetta, cosa vuoi cambiare? Che cacchio, cioè, capisci? Almeno dedico il tempo ad altro. No, non buttiamo in vacca le cose serie che dice Cecilia, no, capisci? No, io volevo invece dimmi. È bellissima questa idea invece di rappresentare la perfezione, perché per quanto possa essere detta a scherzo, in realtà comunque viviamo in un mondo dove cerchiamo continuamente di raggiungere questa benedetta perfezione. Quindi anche se diventa quasi una prigione, no? Una prigione dorata, perché poi cerchiamo ovviamente pensiamo solo ai social media, come cerchiamo di filtrare la nostra vita attraverso le lenti della perfezione, quando dentro in realtà sappiamo che non potremo mai raggiungerla, e quindi diventa una contraddizione pazzesca che poi proprio ci lacera dentro. E un concetto che mi è piaciuto moltissimo e che ho abbracciato a pieno, comunque sto cercando di abbracciare, è quello del beta permanente, che è uno stato di imperfezione continua, un po' come quando un'applicazione in beta è un'applicazione, no, che non è ancora finalizzata, nel nostro iPhone, Android, quello che è. Se noi cominciamo a pensare, ma perché non è ancora finalizzata? Perché c'è sempre una versione migliore, certo. No? Che arriverà l'anno dopo, il mese dopo. E quindi non è che la versione prima faceva schifo, solo che doveva evolvere in una che continua, no, a migliorare nel tempo. Vedi, è la verità dell'impermanenza. Come puoi raggiungere una perfezione se poi tutto è mutevole? Che noia, sì, è vero, infatti, ma per quello c'ho quei due o tre difettini io e te li tieni cari, esatto, perché sennò poi annoio, capisci? Che barba, che noia, che barba, capisci? No, invece volevo sapere, siccome ultimamente sto facendo delle interviste con il nostro amato Christian Moggi, stiamo intervistando dei personaggi che a me piacciono molto e dobbiamo intervistarci anche io e te, sveliamo in anteprima questa cosa. Yes. E c'è una cosa che a me ha colpito molto, che è stata una frase di che ha detto Vincent Lacchiani, che tu conosci bene, che dice: le persone speciali oggi non hanno una carriera ma hanno una missione. Io credo profondamente in questa cosa qui. Mai come oggi uno deve prendere delle posizioni precise, non ci si può più, non si può più dire vabbè, ma chi se ne frega, questo mi fa guadagnare, tanto basta. No, il punto è che poi non, cioè, la crisi che noi abbiamo anche lavorativa deriva proprio dal fatto che le persone oggi hanno bisogno di fare questo salto evolutivo. Non c'è più datemi il lavoro. Il esatto. lavoro che io devo lavorare perché così posso guadagnare e finalmente godermi la vita con quello che guadagno. Esatto. No, è il tuo lavoro che deve essere già qualcosa di appassionante. Quindi trasforma quello che tu sei in grado di fare in una missione. È questo? No, e io volevo sapere qual era la missione di Cecilia. Di Cecilia. Allora, io posso, è una domanda enorme a cui sto cercando comunque di dare risposta continuamente, perché poi cambia nel tempo. Quello che però, no, parlando di impermanenza costante, quello che però ho reso la mia mission costante nel tempo è il fare una cosa come farei ogni cosa. Questa è una cosa che mi ha insegnato Vishen, non verbalmente, ma semplicemente, no, sulla base dei suoi esempi e di come lui si comporta nella vita. Quindi, ed è un concetto che tra l'altro viene espresso molto chiaramente da un personaggio simpaticissimo che si chiama Gary Vaynerchuk. Mm-hmm. Lui dice, no, che non esiste qualcosa, non esiste qualcuno, no, che in ufficio si comporta in maniera, che ne so, che ruba qualcosa in ufficio, che però poi è onesto a casa. Mm-hmm. Non esiste qualcuno che abbraccia la moglie la mattina, poi però darebbe un pugno a un collega. Cioè, come fai una cosa e come fai ogni cosa. È chiaro che poi ci sono dei momenti in cui si piacerebbe, no, dare due sberle a qualcuno, certo. Però nel momento in cui l'intenzione che c'è dietro, e credo che la parola chiave sia l'intenzione, la parola chiave che sta dietro una mission, il fatto di dire la mia intenzione è quella di comportarmi con la massima integrità, di trattare ogni relazione che ho davanti come la più importante, chiunque io abbia davanti, ogni lavoro che faccio, anche il più anche quello che vivo con la come se fosse un'umiliazione. Io ho cominciato a Mindvalley lavorando come centralinista, e dopo una laurea e un master, per me, io l'ho vissuta come un'umiliazione all'inizio. Solo dopo ho capito che trasformando quello che facevo in qualcosa che potevo fare con passione e con integrità, mi sarebbe servito comunque e mi ha servito comunque. Bello, quindi tu avevi laurea e master, poi hai cominciato a lavorare per Mindvalley, se si dice così, sì, come centralinista, sì, e poi facendo di questo la tua missione, facendolo con passione, adesso sei arrivato ad essere uno dei soci fondatori, se non anzi il CEO, sì, di Mindvalley Italia. Senti, ma questa cosa della crescita personale via web, la gente si starà chiedendo, ma funziona veramente? Cioè veramente io posso... cioè via il web posso imparare, come funziona? Cioè una persona curiosa, no, che dice adesso ho sentito Cecilia, ma devo andare a vedere che cosa è che fa, dove va, dove ti trova e come funziona questa cosa. Allora, per cominciare, il sito che hai nominato, la svoltaschool.com, è ideale proprio perché offre un sacco di spunti diversi da parte di autori diversi, ed è l'ultimo progetto che in qualche modo ha rappresentato anche un cambiamento nel mio modo di approcciare la crescita personale sul web. Passando da una idea di offrire una soluzione, che comunque non può essere, perché non esiste una soluzione con un inizio e una fine quando si parla di crescita personale, è un percorso che dura veramente una vita se siamo fortunati, perché a volte non riusciamo neanche a farlo finire in una vita intera. Per cui ho cambiato completamente approccio e la mia idea è proprio quella invece di mettersi in gioco a piccoli passi, uh-huh, no? Inserendo nella nostra vita piccole dosi di stress, come le chiamo io, quindi dei piccoli stress che in qualche modo ci mettono un po' a disagio, però non sono esageratamente pesanti da gestire. Allo stesso tempo ci fanno riflettere e poi da lì però accettare che è un percorso che dobbiamo continuare noi. Cioè non esiste un corso sul web che ti dica come essere felice, non esiste. Certo, ti indica la strada, ma poi devi camminare tu. Devi usare le tue gambe. Capisci? Quindi la svoltaschool.com. .com. Grazie Cecilia, noi ci vediamo fra pochissimo, no? Tu vieni di nuovo in Italia, quindi avremo ancora il piacere, yeah, di fare quattro chiacchiere assieme. Grazie Cecilia Sardeo, a presto. Buona Barcellona. Ciao. Salutaci, ciao. Barcellona. Ciao. Ciao a tutti, ci risentiamo tra poco. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Eccoci. Oddio, no, non stavo dicendo. Ti piacerebbe perché che non mi funzioni il microfono così parli solo tu, eh? Beh, no, ma non perché io debba parlare da solo, eh? Il mio bel passero solitario. Sì, vabbè. No, perché prima abbiamo parlato ovviamente dei vari animali bugiardi e più curiosi e astuti. L'ingannatore. C'era il passero Tu sei più passero solitario, no? Passero domestico. Di domestico non c'è proprio niente. Ma va, che adesso si stava, cioè, il pollice verde mi sta venendo. Sì, è il mignolo giallo. No, io invece sono felicissima di presentarvi un veterinario che abbiamo già intervistato a Radio 24, che Angelo conosce molto meglio di me, che io ho conosciuto ieri personalmente per la prima volta, e che tratta gli animali, i cani, con l'omeopatia. Parliamo di omeopatia perché ci scrivete tante volte, ma anche l'omeopatia perché non ne parla. Eccovi accontentati. Parliamo di omeopatia con Mauro Dodesini. Buongiorno. Buongiorno. No, Mauro Dodesini è un riferimento, cioè, per l'omeopatia è un riferimento, probabilmente in Italia, non lo so, però ogni volta sento parlare di Dodesini, ogni volta che mi chiedono li mando io alle persone da Dodesini, ma tanti mi dicono, ah sai perché ho conosciuto Dodesini, che mi dice... Allora sentiamo Dodesini ai microfoni di Radio 24. L'abbiamo già intervistato una volta. Sì, sì, mi ricordo. Però io sono stata felice perché anche qui io passo una vita dove mi si aprono mondi, aprono finestre nuove su orizzonti e paesaggi, man mano che mi rapporto a persone che mi possono insegnare qualcosa. Quindi, come funziona l'omeopatia per i cani? Ma è molto semplice, noi usiamo l'omeopatia unicista, quindi prima si fa una conversazione col proprietario, si valuta un attimino le caratteristiche comportamentali, fisiche del cane, le modalità della sua malattia, in funzione della raccolta di queste sensazioni si arriva a determinare un rimedio omeopatico unico, in maniera da riuscire, che copra un attimino tutte queste caratteristiche. Se ci abbiamo ragione, migliora subito. Se non ci abbiamo ragione, bisogna indagare un po' meglio. La terapia si adatta e quindi si valuta. No, però lei ha già detto una cosa interessante adesso. Cioè si fa una serie di domande anche sul comportamento. Eh sì, ieri difatti me l'ha fatta tantissimo. Cioè uno dice, vengo lì perché il cane, che so, ha una dermatite, un'otite, un male alla zampa, che ne so, delle cose così. Però lei fa anche le domande sul comportamento? Che è fondamentale, chi porta a spasso quella pelle lì, chi porta a spasso quelle ossa lì, sotto il profilo fisico, cioè ci sono i pruriti che migliorano appoggiandosi a una fonte di calore come può essere il calorifero, altri che migliorano avvicinandosi a una fonte fredda, ci sono delle zoppie che migliorano camminando, alcune che aggravano camminando, ci sono dei versamenti articolari che solo sfiorandoli danno un dolore forte, invece con una pressione forte non danno alcun tipo di dolore. Questo ci sposta, ci aiuta a trovare il rimedio omeopatico più adatto per quel paziente lì. Quindi il comportamento in questo caso è inteso come il cane cammina o anche come si relaziona, un aspetto prima psichico con gli altri cani, vedi, perché con i suoi cospecifici, come si relaziona con le persone. Per esempio, come reagisce quando sta male, vuole essere coccolato, avvicinato, preferisce essere lasciato per conto suo. E ci sono tutta una serie di altri... Ci sono dei risvolti psichici, sociali. Difatti, ieri, quando sono andata a portare Morfine e Euphoria, la mia barboncina e il Chihuahua, a parte che a volte mi anticipava lui con le domande su cose che già sapeva, sembrava che li avesse già visti i cani, ma era, fra l'altro mi ha detto che Morfine è un soggetto molto particolare, vero? Il Chihuahua. No, ma sotto un bel profilo, con tutto rispetto per Dodesini, qua chiunque Angelo avrebbe Angelo non sopporta non è vero, lo amo da morire, però è nevrotico, sta troppo in casa. No, non è vero, dottore, è nevrotico? Ma non fa, perché devi mettere in mezzo una reazione con l'esterno, che mette le mani avanti a modo suo. Questo mi aiuta molto a scegliere il rimedio. È spaventato. Infatti, ha uno scudo suo nei confronti del mondo. Allora, fra le varie cose che mi piaceva condividere con lei in radio e con tutti i nostri ascoltatori, c'era questo problema dei denti, tartaro, sì, de tartasila. Aspetti, cos'è? Mia cugina mi ha chiamato. Oddio, c'ho quattro cani, gli viene là... Qual è la malattia? La parodontite, una tragedia, la parodontite, bisogna fare interventi di 3, 4, 5 ore ai cani per vedere i canali dei denti piuttosto che... La nostra è una medicina molto semplice, si semplifica per molto tanto, decisamente tanto la vita. Allora, non è farina del mio sacco, ma me l'ha consigliato un amico dentista più di 10 anni fa, da quando applico questa soluzione già andiamo meglio. Dobbiamo avvicinarci al modo di mangiare dei cani e dei gatti che non è il nostro. Mm. Quindi loro non cuociono niente, perché fino a prova contraria non c'è un carnivoro sulla terra che cuocia nulla, e mangiano crudo a temperatura ambiente. Ecco. Già il contatto tra la mucosa della bocca e il pezzettino di carne a temperatura ambiente già mi rivitalizza la mucosa della bocca. Questo non ha nessun senso dal punto di vista biochimico, con tutta probabilità è un trasferimento di ordine fisico. Però sta di fatto che comunque già così il 70% delle patologie della bocca migliorano. Ecco. Tante gengiviti, tante stomatiti, tante paranoie. Poi c'è la fase 2. Nei soggetti predisposti sviluppano tanto tartaro perché il pH della saliva è molto basico, per cui possono sviluppare tanto. Allora, in quel caso lì cosa si fa? Si dà un'alimentazione casalinga, quello che ho definito. Secondo me non è così indispensabile inserire la fibra delle crocchette quanto dargli un pezzettino di carne. E poi si ragiona delle caratteristiche del soggetto per arrivare alla determinazione del suo rimedio. Se riesco a risolvere questo quesito, quindi riesco a capire a quale rimedio lui corrisponde e glielo somministro, allora lui ha subito un giovamento della bocca e di riflesso, pian in pianino, si migliora anche il discorso del tartaro. Poi un altro trucco in più è quello di inserire la salvia. Mm-hmm. Proprio la foglia di salvia, che in estate più o meno ci abbiamo tutti sul terrazzo in giardino, gli si strofina la foglia di salvia sui denti una volta al giorno e questo riduce la formazione di molto la situazione della bocca. Che poi questa cosa della salvia io 20 anni fa l'avevo sentita per noi. Stacca il microfono di Rosita ogni tanto. Sì. Dicevo questa cosa della salvia 20 anni fa l'avevo sentita già per noi, che ogni tanto faceva bene anche a noi perché diventano i denti più bianchi. In quello che c'è del dentifricio c'è quasi sempre la salvia. La salvia. Ah, vedi? No, mi ha colpito una cosa che lei ha detto poco fa. Se gli corrisponde il rimedio, cioè il rimedio non deve corrispondere alla malattia ma al soggetto, è il soggetto che la porta in giro. Però vediamo la cosa da un punto di vista moderno. Cioè il soggetto corrisponde al suo DNA, no? Noi ne abbiamo ognuno di noi c'ha il suo. In questo DNA noi siamo predisposti più o meno a una 50 di malattie. Quindi questo soggetto vuol dire che è predisposto a una 50 di malattie. Non è detto che le sviluppi tutte, anzi, però alcune le sviluppa. Dico una cosa decisamente conosciuta in ambito omeopatico. I soggetti che corrispondono ai rimedi sulfurici sono particolarmente predisposti ai problemi di pelle. Ah, vedi. Quindi già il fatto che uno sviluppi quella malattia lì e non un'altra già mi aiuta nella determinazione del rimedio. Perché non è casuale che sviluppi quella malattia lì. Beh, io mi ricordo le parole di Gianni Tadolini, che è un nostro amico di Radio 24, abbiamo intervistato altre volte peraltro, durante una lezione in classe, no? Lui stava facendo lezione, lui disse una cosa, sapete, noi alla fine non sappiamo un sacco di cose, perché io sto lavorando con un cane, stava lavorando con questo cane qui, in canile, che aveva dei grossi problemi di dermatite, le avevano provate tutte con la farmacopea, come si dice, tradizionale, no? con la medicina tradizionale, non c'era verso di farlo guarire. A un certo punto si sono rivolti ad un veterinario omeopatico, hanno individuato il rimedio evidentemente giusto, il cane è guarito. Lui dice, uno può dire quello che vuole sull'omeopatia, però ci sono delle cose che ti sbattono in faccia la sua efficacia. La vera difficoltà è la diagnosi del rimedio corretto. Certo. Perché è un abito su misura. Certo. Nel momento stesso in cui io diagnostico quello, il caso è risolto. Prima o poi, col tempo, si risolve. La difficoltà è quella. Però se c'è un approccio di tipo logico, perché questa medicina l'ha inventata un tedesco, allora si dà una priorità a certi sintomi per arrivare a un certo rimedio. Nel momento stesso in cui questo rimedio non funziona, vuol dire che la priorità non era corretta, quindi devo rivedere le priorità e quindi valutare un altro rimedio. Se anche sbagliassi un'altra volta, con la terza volta ci arrivo. C'è un approccio di tipo logico. Ecco, il rimedio cosa fa? Praticamente ristabilisce una sorta di equilibrio dell'individuo. Praticamente, se lo vediamo da un punto di vista dei circuiti della medicina cinese, dei meridiani della medicina cinese, ristabilisce il circuito corretto del meridiano. Ah, vedi. Quindi se vediamo dal punto di vista... Infatti gli studi verrebbero fatti sotto profilo fisico. C'è della gente che dei fisici che si stanno occupando di come funziona il rimedio. Proprio perché è inutile dire non c'è dentro niente, non deve esserci dentro niente perché oltre il numero di Avogadro non c'è dentro più nulla, residua una certa frequenza, questa frequenza deve andare in risonanza con quella del soggetto. E questo è il punto, cioè è inutile dire non c'è dentro niente quindi non funziona l'effetto placebo, no, è una medicina fisica, lavora sotto il profilo fisico, non biochimico, quindi è un altro discorso. Beh, io sono felicissima perché, come dicevo, per me io mi curo con l'omeopatia, quindi sono felicissima di utilizzarla definitivamente anche per i cani. Le vaccinazioni per i cani, come funziona? Perché c'è chi dice che non servono, che non vanno fatte, però... Questo al di là dell'omeopatia, sì, sì, questo al di là dell'omeopatia, però volevo un parere anche da un veterinario. Le vaccinazioni sono state fondamentali per eradicare tantissime malattie. In questo momento assistiamo più a un'orgia vaccinale che non, quindi il problema è stabilire quando. Ecco, quando, e come e quando. Quando allora, sarebbe il giusto? Dello stile di vita che conduce il soggetto, se, non so, faccio per dire, facciamo l'esempio di gente che vive in città, in una metropoli, che abbia un barboncino che vive al quinto piano e scende ogni tanto a fare i suoi bisogni. A quel punto lì probabilmente 3 vaccinazioni all'anno sono troppe. Poi si valuta un attimino il soggetto che non va vaccinato, quello malato, quello defedato, quello vecchio, quello con problemi. Perché la vaccinazione può scatenare reazioni spaventose. Poi c'è da valutare la situazione singola, perché la vaccinazione stimola in maniera specifica il sistema immunitario e bisogna valutare, per esempio oggi si è arrivati alla titolazione anticorpale, per cui facendo prima un titolo anticorpale, se io ho già il mio cane con un titolo anticorpale elevato, è perfettamente inutile che faccia la vaccinazione di in quell'anno lì. È assolutamente inutile. Quindi è un abito su misura che bisogna ragionare, perché ha indicazioni ma comunque ha controindicazioni. Allora dottore, un break solo velocissimo, perché poi le volevo chiedere una cosa sulle vipere. Ci sentiamo fra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E stiamo parlando di omeopatia per i cani, in questo caso con il dottor Mauro Dodesini, e io vi ho lasciato prima della pausa perché c'è una delle tante mie paure, è quella delle passeggiate d'estate, il rischio della vipera. Se una vipera morde il nostro cane, come la paura che ho delle come si chiamano, processionarie, ma la vipera, i cani piccoli, non c'è salvezza, giusto dottore? Allora, bisogna inserire il concetto di dose letale. Questa è in funzione di quanto il veleno viene iniettato, in funzione del peso del paziente. Ovviamente nel cane piccolissimo la cosa può essere veramente triste nel giro di un breve periodo. Nel cane di media taglia, di grossa taglia, invece si può intervenire. I miei cani sono spacciati. I suoi sono piccolissimi. Certo, quindi però si può intervenire, perché è molto semplice. Si fa un piccolo taglietto nella sede del morso, si schiaccia un attimino fuori quello che si riesce, e poi c'è un rimedio omeopatico proprio che viene estratto dalla vipera, che si chiama vipera, e glielo si dà con una certa frequenza ogni mezz'ora, finché si risolve il quadro. Ma per bocca o sulla ferita? In vacanza in Trentino l'anno scorso, e qui il cane è stato morso dalla vipera, e tanto dai colleghi sotto flebo per una settimana, stava proprio male, finalmente si è riusciti a contattarci, ha acquistato il rimedio, e nel giro di pochi giorni è andato a posto, anche gli esami sono andati a posto. Ma in questo caso il rimedio si dà per bocca o sulla, per bocca. Si mette sulla per bocca. Ma quindi, è molto facile. Ma uno se lo può portare in giro quando fa le passeggiate? L'ideale è portarselo in giro. Certo. E portarselo in giro, tra l'altro, noi abbiamo preparato un piccolo pronto soccorso omeopatico per la gente che va in giro. Allora, anche nel cane artrosico, anziano, con problemi ortopedici seri, gli si dà ogni tanto un goccio del suo rimedio costituzionale, e questo va avanti e recupera molto prima. Poi ci sono i rimedi che coprono i traumi, che coprono il morso della vipera, che coprono quelle piccole emergenze lì. Se il proprietario interviene rapidamente, anche la risposta sarà pronta. Poi ovviamente andrà dal collega a far visitare il cane, eccetera, eccetera. Ma intanto non ha buttato via del tempo e il cane comincia a riprendere. E l'effetto del veleno viene attenuato. Questo mettere, quindi, per esempio, un'altra cosa da avere in tasca quando andate in montagna, per dire, siccome c'è sempre qualche deficiente che mette in giro qualche boccone avvelenato o c'è qualche schifezza in giro di suo, per far vomitare il cane basta spruzzargli in bocca un goccio di acqua ossigenata oppure un pochettino di sale, e questo vomita subito e quindi elimina la stragrande maggioranza Quindi portarsi dietro questo piccolo kit. Adesso io vengo da lei, siccome io devo ritornare a luglio, mi fa tutto un bel kit così vado a fare le passeggiate. Quello del sale dell'acqua ossigenata è banale. Guarda, dove avevo l'altro ambulatorio, avevo avuto 500-600 cacciatori, andavano in alta montagna e impiegavano 5-6 ore a scendere col cane avvelenato, era già morto. Con quel trucchetto lì, che un pacchettino di sale gli durava 20 anni, abbiamo salvato decine di cani. Ma il sale è cosa? Sale grosso o sale fino? Meglio grosso, perché fa presa, ma no, non deve ingerirlo, basta chiudergli la bocca e induce il riflesso del vomito e lo butta fuori. Ah. Un goccio di acqua ossigenata fa la stessa cosa, perché da 2 a 4 ore lo stomaco si svuota e entra in intestino ben assimilato. Prima lo faccio vomitare, meglio è. Certo. Ma invece l'acqua ossigenata come si mette? 3-4 gocce sempre in bocca? Un millilitro, un goccio direttamente in bocca. Lo mandano giù? No, basta il contatto con la bocca. Ah. Non devono ingerirlo, Induce il vomito. Sì, no, c'è Angelo che mi guarda e sta già pensando che quando andremo in montagna st'estate mi vedrà partire con uno zaino con dentro il sale grosso. No, ma io mi porto delle scorte per starmi una settimana, l'antivipera, le cose. Guardi, quando io ho fatto il militare ero in infermeria e ho fatto una valanga di campi e andavamo in giro col siero antiofilico sotto ghiaccio, e poi era caro e aveva una scadenza molto ravvicinata. Con rimedio omeopatico a partire dalla vipera vi dura almeno 5 anni, vedi. Molto più leggero, non c'è bisogno del frigorifero. Benissimo. A seguito. Bene, dottor Grazie, Dodesini. Dottor Dodesini, vi ricordo il sito per imparare di più, appunto per scoprire di più a proposito dell'omeopatia, si chiama omeopatiapossibile.it. Grazie Mauro Dodesini. Grazie Mauro, noi ci sentiamo, poi magari la ricontatteremo per altre puntate volentieri. Grazie, buona giornata. E a quest'ora abbiamo fame, quindi c'è la nostra rubrica Piatti e Ciotole. Piatti e ciotole. Con Mara di Noia. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Mara. Come stai? Buongiorno. Bene, bene, grazie. Ascoltavo con molto interesse. Vero? Veramente. E sì. Per oggi cosa ci hai preparato? Cosa ci fai preparare? Cosa ci fai scoprire? Allora, oggi vi preparo insalata di quinoa, tofu grigliato, olive e pomodori secchi. Ricordo a chiunque ci stia ascoltando che tutta questa roba la possono mangiare anche i cani, per questo che si chiama piatti e ciotole, oggi non riesco a parlare, e cioè noi prepariamo lì e poi possiamo metterlo nel nostro piatto e magari con qualche piccola modifica anche nella ciotola del nostro cane. Ma o gatto. Certo. Vai. Allora, cosa vi occorre? 150 grammi di quinoa bianca, 200 g di tofu compatto, 3 cucchiai di olio di oliva, un cucchiaino di erbe miste secche, 170 g di olive denocciolate, quelle che preferite, 80 g di pomodori secchi scolati dall'olio di oliva e il succo di un limone. Dovete lavare molto bene la quinoa e metterla in una casseruola con una quantità di acqua pari al doppio del suo volume, portare a ebollizione e cuocere per 10 minuti a fuoco medio. Togliete la pentola dal fornello e lasciate gonfiare fino ad assorbimento completo dell'acqua. Risciacquare in acqua fredda in un colino a maglie fini. Tagliare poi il tofu a dadini e rosolatelo in una padella anche senza olio. Aggiungete le erbe secche. Quando il tofu è dorato, spegnete il fuoco e potete aggiungere un goccino veramente piccolo di salsa di soia, mescolare e tenere da parte. In un'insalatiera mescolare la quinoa con l'olio rimasto, che saranno credo 2 cucchiai, aggiungere le olive e i pomodori secchi tritati, il tofu grigliato e questa insalata potete conservarla per 24 ore in frigorifero senza alcun problema. Per il piatto umano la servite, per la ciotola la servite così come l'abbiamo preparata, per il piatto umano invece potete aggiungere delle spezie che magari evitiamo di usare nei cani che non sono abituati, come ad esempio il curry o magari ancora un po' di salsa di soia. Potete irrorare per entrambi, diciamo sia per il piatto che per la ciotola, con un filo di succo di limone prima di consumarlo, che gli dà un aroma più fresco vista la stagione. Gnam. Senti, ma tu cucini da qualche parte che vengo a vederti così? Allora, io perché cucino io durante, se vedo... i corsi, durante i miei devo corsi. Venire. Quando devi fai venire sti corsi? Corsi? Come si fa a sapere quando fai i corsi? Allora, sulla mia pagina Vega Chef sono sempre pubblicati gli eventi, anche sul sito www.vegachef.it. Splendido! Oh, benissimo, splendido. Fantastico. Insieme alle ricette e ai libri che ha scritto Mara, come si chiama il tuo ultimo libro? Quello allora, di ricette la parlo. Ciotola veg. La ciotola veg. La ciotola veg. Cos'è che era? Ciotola veg, l'ho già sentito. L'hai già sentito, vero? E di cui io sono veramente, è un gioiellino per me, è una, la, il coronamento di un sogno, la ciotola veg. Senti Mara, grazie, verrò a vedere qua, perché io imparo di più vedendo poi cucinare. Certo, poi, vedendo, ma poi tutto ciò è facilissimo, Rosita, è facilissimo, vi assicuro che è veramente No, certo, facile. Certo, si capisce che è facile, però io siccome sono una pigra... invece di prendere appunti, fra me preferisco vedere, che poi prendo anche l'appunto, ma poi memorizzo meglio. C'ho tu una hai memoria, la memoria visiva. Sono, certo. Come, scusa, ci sono, sono degli stili di apprendimento. Cinestesica. Ma anche visiva. No, ci sono degli stili di apprendimento per gli esseri umani. Hanno stabilito quattro categorie. Ne parleremo la prossima volta, magari facendo un parallelo anche con gli stili di apprendimento nei cani e nei gatti. Esatto, vedi. Che meraviglia. Vedi. Che meraviglia. Buona domenica, Mara. Noi andiamo a mangiare, capisci? Buona domenica a voi. E grazie, buona Mara di Noia. Grazie. E grazie a tutti. Buona estate, mi raccomando. Buona estate. Ciao.